Al-Qaria, la percotente. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Al-Qari'ah. La percotente. Mal-Qari'ah. Cos'è mai la percotente? Wa ma adraka mal-Qari'ah. E chi potrà farti comprendere cos'è la percotente? Il giorno in cui gli uomini saranno come falene disperse. E le montagne come fiocchi di lana cardata. Colui le cui bilance saranno pesanti, avrà una vita felice. Colui che invece avrà bilance leggere, avrà per dimora il baratro. E chi potrà farti comprendere cos'è? È un fuoco ardente.